Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e il settimo al mondo? Forse gli ascoltatori di questa trasmissione credo che lo sappiano a memoria, visto che da quando abbiamo iniziato a settembre io ve lo ripeto tutte le volte, ma magari qualcuno che si è appena collegato e sente Fabbrica 2.4 per la prima volta non lo sa. Dunque, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e il settimo al mondo, ve lo ripeto una seconda volta se per caso non l'aveste capito bene. Però, a differenza degli altri grandi paesi manifatturieri del mondo, come gli Stati Uniti, la Germania, la Cina, il Giappone, la Corea, ma anche quelli che sono più piccoli di noi, come la Francia o la Gran Bretagna, l'Italia di fatto a tutt'oggi non ha una politica industriale. Si supplisce in qualche modo, si tenta di supplire con l'auto-organizzazione. I distretti si auto-organizzano, tendono di fare iniziative locali di coordinamento e cose così, cose che dovrebbero in qualche modo supplire a quello che le grandi politiche industriali dei grandi paesi manifatturieri, meno noi, fanno per rendere il sistema produttivo non solo indirizzato verso un punto d'arrivo, ma anche soprattutto per organizzare il sapere, la ricerca, le cose che si conoscono, codificare le competenze, perché il manifatturiero non è più una questione delle fabbriche sporche e degli operai che sono coperti di fuliggine e devono pulirsi col sapone 2 ore. Il manifatturiero ormai è qualcosa fatto totalmente di conoscenza, non ci sono più le dark satanic mills, come venivano chiamate le fabbriche nell'Ottocento, ci sono fabbriche che sono sempre più simili a laboratori high-tech e nei quali la competitività si gioca sulle codificazioni delle conoscenze, e la codificazione delle conoscenze sta al centro delle politiche industriali. In Italia niente. Tra le iniziative per auto-organizzarsi brilla il cluster Fabbrica Intelligente, di cui adesso parliamo, perché abbiamo come ospite il signor Gianluigi Biscardi, che è un imprenditore della Cosberg, un imprenditore meccanico ma anche in cariche associative, e si è preso l'onere non da poco di presiedere la Fabbrica Intelligente. Buongiorno dottore. Buongiorno. E poi, come contraltare, abbiamo ormai un amico di questa trasmissione, che è il professor Patrizio Bianchi di Ferrara, che è uno dei più grandi economisti industriali che ci sono in Italia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, Biscardi, ci spiega in 2 parole che cos'è il cluster Fabbrica Intelligente? Che cos'è? È uno degli 8 cluster nazionali istituiti dal MIUR nel 2013. Uh-huh. Che pure molte volte questo non si sa, sembra una cosa messa comunque insieme. Comunque è il più importante, perché sì, il manifatturiero è centrale per l'Italia, qui ci sono 300 aziende, sì, okay, enti di ricerca, Confindustria. Sì, però è un'associazione senza fini di lucro che attualmente raccoglie imprese di grandi, medie, piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni non governative. Ecco, raccoglie tutti questi per fare che? Perché ci stiamo cercando di scrivere, il primo obiettivo era scrivere una roadmap di cosa dovevamo fare su questo, sul manifatturiero, dove abbiamo preso tutte le piattaforme europee, abbiamo analizzato, ma abbiamo guardato i megatrend, le sfide specifiche per il manifatturiero, cioè i nuovi mercati emergenti, cambiamento demografico, cambiamento climatico, accelerazione dell'avanzamento tecnologico, scarsità delle risorse. Tutto questo, siamo arrivati a questa roba. Per scrivere una roadmap che avete scritto? Abbiamo scritto. Che però avete mantenuto riservata? No, assolutamente, l'abbiamo già presentata ai ministeri su questo, e dove lì sono uscite le 7 linee di intervento. Queste 7 linee di intervento sono sistemi per la produzione personalizzata, strategie, metodi e strumenti per la sostenibilità industriali, sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche, sistemi di produzione ad alta efficienza, processi produttivi innovativi, sistemi di produzione evoluti adattivi e strategie management per i sistemi produttivi di prossima generazione. Ma vi hanno dato retta? Certo che ci hanno dato retta. Abbiamo anche, il MIUR ha lanciato 4 progetti, dove siamo partiti con questi 4 progetti, un valore di 43 milioni, abbiamo 90 imprese che stanno lavorando, dove i progetti della sostenibilità del manufacturing, l'adaptive manufacturing, la smart manufacturing e high performance manufacturing. Abbiamo qualche problema su questo perché stiamo passati 2 anni e i progetti hanno qualche problema ancora a essere firmati. Questo sta creando un grosso problema anche per il cluster, perché se questi progetti non vanno avanti automaticamente sembra che stiamo lavorando per niente. So che stiamo lavorando col MIUR su queste cose, qualche problema. Ma perché devono venire firmati? Ma il problema è, dipende, siccome ci sono 90 imprese, è abbastanza che cambi un'impresa, che mi fallisca o che cambi nome, può creare problema. Un problema di burocrazia. Ma non solo chi è che deve firmarli? Il Ministero dell'Università e anche quello della dello sviluppo economico. E perché non si sono dati una mossa? Stanno lavorando, ancora ieri abbiamo fatto un incontro, stiamo sistemando un po' di cose. Questo è un grande problema che stiamo cercando di risolvere. Ecco, Bianchi, perché le imprese, qua è una cosa molto importante, ci credono tantissimo e hanno già investito su questi progetti per fare questi prototipi già più di 11 milioni e mezzo. Accidenti. Bianchi, lei che cosa ne pensa? Ma innanzitutto ci ha dato 2 chiavi di lettura fortissimi, Viscardi. Il primo è questo: il cambiamento della manifattura c'è perché cambia il mondo. E lui ha detto 2 parole chiave fra le tante. Il primo è personalizzazione. Poi non solo abbiamo superato l'epoca della manifattura di massa, quella degli anni 50-60, ma anche quelle dei prodotti differenziati. Ormai siamo alla capacità di produrre un bene per te, per lui, per quell'altro. Cioè questa capacità dell'impresa, degli imprenditori italiani, non solo di fare delle cose, ma di riuscire a capire i bisogni dei singoli, che se vuole è la chiave di volta del Made in Italy. Quindi siamo al di là. La personalizzazione di massa. La personalizzazione di massa, questa è la chiave della nuova economia digitale, che richiede sì molte tecnologie, ma richiede anche però molte competenze e quindi le persone, come anche Viscardi ha detto. L'altro tema è quello della sostenibilità, cioè una sostenibilità che non può essere solo ambientale, ma anche sociale, ma anche dentro alla società. L'altra cosa che ha detto Viscardi, che invece è l'altro tema, ha usato molto le parole smart, ma non possono essere smart solo le imprese, devono essere smart anche le amministrazioni. E lì abbiamo visto che qualcosa si sta incagliando. Ma infatti l'idea è quella che io ho detto all'inizio, cioè che in Italia una politica industriale organizzata, efficiente ed efficace ancora non c'è. Ma perché sempre di più la politica industriale torna a essere non mi invento un decreto per darti 2 soldi, ma è la capacità di organizzare proprio l'intelligenza di sistema, cioè il fatto che tutti i pezzi di un sistema, le imprese, le università, il pezzo fondamentale delle amministrazioni si allineano fra di loro e giocano la stessa partita. Qui è molto complicato, perché nel momento in cui le politiche non si fanno più per decreto legge, perché per decreto legge, come abbiamo detto, lei fa tacere uno, ma non gli fa dire delle cose intelligenti. L'idea dell'allineamento diventa oggi la chiave della intelligenza di politica, che torna a essere politica, cioè torna a essere la capacità di una guida anche morale di riferimento, con cui tutti i pezzi di un sistema, di un cluster, si muovono nella stessa direzione, la stessa velocità. Ma questo in un mondo ideale, a Paperopoli, a Topolinia. No, che non è Topolinia, non è Paperopoli, perché come abbiamo detto tante volte, il tema Industria 4.0 nasce da un'azione di politica industriale del governo tedesco, ormai cominciato 4 anni fa, in cui organizzando il cluster e organizzando 36 gruppi di lavoro specifici per argomento, ha messo insieme tutti i pezzettini. Cioè non è Topolinia, non è Paperopoli, questo purtroppo è Bonn, Berlino, Stoccarda, mille sistemi. No, ma per noi è impensabile, perché la coscienza dell'importanza del manifatturiero non è che poi sia molto viva tra le nostre classi dirigenti. Ma sai, abbiamo lavorato tanti anni per diffondere questa idea, cioè l'idea di una cultura di impresa e di industria. Cioè l'idea che si poteva fare a meno in questo paese dell'industria l'abbiamo coltivata in tutte le salse. Noi oggi scopriamo, e fai bene a dirlo tutte le volte, che noi siamo un grande paese manifatturiero, ma siamo manifatturiero anche perché in maniera inconsapevole abbiamo preso la strada progressivamente della personalizzazione dei prodotti. E tu vai da New York a Mosca e vedi che i prodotti italiani sono quasi sempre della fascia più alta, più alta, più alta, che richiede competenze, richiede anche tecnologie che un sistema apparentemente disarticolato riesce a gestire in maniera flessibile. Hai ragione però quando dici questo non è più sufficiente, perché altrimenti un pezzo del paese cresce, i due terzi del paese rimangono fermi. Sulla definizione esatta del cluster fabbrica intelligente, ecco una brevissima scheda. Cluster Fabbrica Intelligente è uno degli 8 cluster autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. I cluster sono associazioni senza fini di lucro che ricevono supporti per svolgere attività di ricerca e soprattutto sono chiamati a suggerire le migliori politiche per i settori di riferimento. La mission del cluster Fabbrica Intelligente, pertanto, è di elaborare politiche idonee a far crescere di valore il manifatturiero italiano. Una mission fondamentale se si pensa che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e il settimo al mondo e che il manifatturiero genera direttamente e indirettamente il 60% del valore aggiunto del nostro paese. Attualmente il cluster Fabbrica Intelligente, presieduto dall'imprenditore della Cosberg Gianluigi Viscardi, raccoglie quasi 300 soggetti tra imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, membri industriali, università e centri di ricerca, membri di ricerca, associazioni imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni non governativi e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing e della fabbrica intelligente, membri associati. Tra le imprese che fanno parte del cluster vi sono nomi noti come Bosch, BASF, Dalmine, Elica, IMA, SCM. Gli obiettivi strategici del cluster Fabbrica Intelligente sono 5. Il primo è di aumentare la competitività dell'industria manifatturiera italiana attraverso la progettazione e la realizzazione di una serie di iniziative di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti. Il secondo è di mantenere e coltivare in Italia competenze avanzate per il manifatturiero. Il terzo è di aumentare la capacità delle imprese italiane di accedere a fondi internazionali. Il quarto è di aumentare il return on investment dei progetti di ricerca. Quinto e ultimo obiettivo, ma non certo meno importante, supportare l'imprenditorialità e la crescita delle aziende grazie al coinvolgimento di investitori privati. Avete appena sentito una scheda sul cluster Fabbrica Intelligente. Siamo ancora in trasmissione con Gianluigi Viscardi, che ne è presidente, e Patrizio Bianchi. Però ora ci dobbiamo interrompere per un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. SMAO Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it. Vi presento. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Gianluigi Viscardi, imprenditore meccanico all'avanguardia nel settore della meccatronica e presidente del cluster Fabbrica Intelligente, e con Patrizio Bianchi, che è un noto economista industriale. Stavamo dicendo che, se per caso ancora non ce l'aveste chiaro, che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e il settimo al mondo. Nonostante questo, non c'è una grande sensibilità a livello di governo, a livello di classi dirigenti, su quello che veramente significa la manifattura in questo paese. Lei che ne pensa, Viscardi? Ma si parla molto appunto di politica industriale, ma molte volte mi sono chiesto, ma chi le deve scrivere questa politica industriale? Io penso che anche noi imprenditori, le associazioni, tutti insieme dobbiamo aiutare, compreso, a scrivere queste politiche industriali. Il mondo sta girando a una velocità spaventosa, veramente, e tutto questo dobbiamo non solo alle imprese, ma anche le università, i centri di ricerca, ma le stesse regioni. Non si può fare una politica nazionale e poi regionale se ne fa un'altra, ma non possiamo fare tutto questo se non è collegato anche a livello europeo di cosa sta succedendo. Non possiamo dire andiamo a prendere bandi di Orizzonte 2020, e invece deve essere tutto collegato, e questo è quello che sta facendo il cluster nazionale. Ecco, lei ha appena detto un concetto molto interessante: mettere le fabbriche in grado di produrre un pezzo in meno di quello che venderanno. Ce lo può spiegare per bene che cosa significa? Perché poi racchiude il just in time, l'assenza di magazzino e tante altre cose. Ma diciamo che la velocità del prodotto, che cioè il prodotto prima durava due anni adesso, cioè da quando si studiava a quando finiva il prodotto era 20 anni. Solo a studiarlo e metterlo in produzione ci volevano 2 anni. Tutto questo è compattato, in 2 anni si fa tutto questo. Perciò devo avere le fabbriche proprio che siano riconvertibili, riconfigurabili, che io devo fare un prodotto che come esca lo possa produrre, che poi possa produrre anche in grande quantità, ma l'importante è che io abbia fatto in modo che faccia credere al mio cliente che gliel'ho creato appositamente per lui. Tutto questo naturalmente bisogna usare tutte le tecnologie, stare attento, però tutto quello che ho detto fino adesso manca la cosa più importante. Dobbiamo anche il discorso del nostro capitale umano, non solo le fabbriche, ma le fabbriche d'ora in avanti saranno proprio, al centro ci sarà la persona. Dobbiamo preparare queste persone, dobbiamo fare la formazione su queste, ma non solo questo, la formazione continua, quelli dei 40 anni in avanti che dobbiamo entrare e far gestire e preparare tutto questo. Benissimo il discorso della digitalizzazione, ma tutto dobbiamo preparare le nostre aziende per questo. È un percorso che non si compra questo, bisogna farlo e bisogna farlo tutti insieme. Allora, professor Bianchi, ma questo concetto di produrre un pezzo in meno di quello che verrà venduto, ti sembra importante? Sì, perché è il segno della nuova industria, cioè questa industria che non fa più le robe in quantità, non è più rivolta a fare la massa, ma è rivolta a dare risposte specifiche alle singole domande, che è quella in cui tu hai il massimo intelligenza, il massimo di valore aggiunto, e su cui è proprio l'Italia che può avere la leadership a livello mondiale. Certamente. Poi c'è anche l'aspetto che diceva Viscardi prima della formazione. So che voi siete sensibili, perché tu sei in questo momento assessore al lavoro e formazione professionale dell'Emilia Romagna, e lo sei da economista industriale. Sì, guarda, è una grande esperienza che sto facendo, per cui si vede sul terreno vivo quanto le imprese che operano sulla punta del sistema produttivo hanno bisogno anche di investire nel capitale umano, ma da considerare proprio il capitale. Quella che la parola è importante, non è più soltanto il lavoro che si aggiusta e che tu puoi formare con un po' di corsetti, è una parte fondamentale del tuo valore aggiunto. E allora va coltivato sia in entrata con delle buone scuole, ma va mantenuto nel tempo. Purtroppo l'Italia è il paese che spende di meno nella formazione continua, mentre la ragione di Scardi è la formazione continua che fa la differenza. Sui 4 principali progetti del cluster Fabbrica Intelligente, ecco una breve scheda. Il cluster Fabbrica Intelligente ha presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 4 progetti che dovrebbero costare circa 43 milioni. Questi progetti potrebbero cambiare il volto della manifattura italiana, rendendola molto più competitiva. Manifatturiero sostenibile. L'idea è di fare in modo che nei processi di fabbricazione vengano minimizzati gli impatti ambientali negativi, siano risparmiate energia e risorse naturali, venga garantita la sicurezza di lavoratori e consumatori. Fabbrica intelligente e adattabile. Lo scopo è di migliorare la capacità delle fabbriche di essere flessibili ed efficienti, allo scopo di rispondere in modo adeguato ai cambiamenti richiesti dalle dinamiche sempre più veloci del mercato. Oggi l'automazione è pervasiva. L'uso estensivo di sistemi e componenti meccatronici che operano in maniera efficiente permette alle linee produttive di ottenere elevate velocità con ottimi standard qualitativi. In particolare, celle robotizzate e macchine a controllo numerico CNC lavorano insieme a veloci macchine automatiche in moderne linee di produzione. Il progetto Fabbrica Intelligente Adattabile mira allo sviluppo di dispositivi innovativi e macchine per sostenere la riconfigurazione e l'adeguamento di macchine e robot. Smart Manufacturing. Il progetto vuole utilizzare le tecnologie digitali per permettere alle aziende manifatturiere di essere più competitive, produttive e reattive alle necessità del mercato. Intende inoltre arricchire i prodotti strumentali di servizi abilitati dalle tecnologie ICT, per garantire la massima efficienza e qualità produttiva. High Performance Manufacturing. Il progetto High Performance Manufacturing è incentrato sul settore dei beni strumentali per l'industria, un ambito in cui alcune aziende italiane conservano da sempre un ottimo posizionamento internazionale. 2. Gli obiettivi fondamentali, l'incremento prestazionale a livello di processo e la flessibilità dei sistemi di lavorazione. Rieccoci in linea, stiamo ancora parlando con Gianluigi Viscardi, presidente del cluster Fabbrica Intelligente, e con il professor Patrizio Bianchi, che è un economista industriale, ma nella vita ha fatto anche molte altre cose, è stato consigliere di amministrazione dell'IRI, è stato in Nomisma, è stato anche rettore dell'Università di Ferrara e in questo momento è assessore al lavoro, formazione professionale e rapporti con l'Unione Europea della Regione Emilia-Romagna. Dunque, parlavamo di politica industriale, ma professore, secondo lei il governo Renzi, che all'inizio sembrava del tutto insensibile alla questione, ma adesso inizia a fare delle cose, a pensare di sistemare l'Ilva, a far intervenire la Cassa Depositi e Prestiti, a fare un piano per il digitale, come si sta muovendo? È cambiato un po', no? Ma secondo me sì, perché si è reso conto che questa partita della politica industriale è il cuore di tutto il sviluppo. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo a livello europeo ridotto tutte le capacità di fare politiche monetarie, nel momento in cui di fatto a livello internazionale vi è una situazione così turbolenta, il modo per riposizionare il paese è lavorare su quello che è il punto forte, cioè la manifattura e l'industria. E quindi la politica industriale sta diventando sempre di più il punto cruciale per il riposizionamento del paese. Lo sta facendo con diverse cose, quasi avesse vergogna a usare la parola politica industriale. Ma secondo me ha vergogna, perché qui siamo vittime del complesso dei comunisti, per cui ricorda il comunismo agli ignoranti, perché fanno politica industriale strutturata la Germania e gli Stati Uniti, che non mi sembra siano dei bolscevichi, e quindi c'è proprio la paura della parola. Sì, c'è la paura della parola, ma c'è anche, secondo me, poca riflessione sistematica, non solo il governo ma anche a livello di ricerca e università, su che cosa è diventata oggi la politica industriale. Mentre la politica industriale era tradizionalmente l'intervento ex post sulle anatre zoppe, la politica industriale oggi è il modo di creare quel sistema di intelligenza collettiva che riposiziona il paese intero. È proprio stato un salto logico che c'è stato in questi ultimi 10 anni nel concetto. Non è uno strumento per i poveri, i derelitti e gli azzoppati. Beh, la ripresa industriale americana, la ripresa di Obama, si spiega con una politica industriale attiva. Ma guardi anche quella tedesca. Cioè, guardi, politica industriale è una cosa strana, perché molti di quelli che la fanno in maniera massiccia, non lo dicono. Mentre molti parlano molto, poi non la fanno. Allora, a questo punto, io credo che sia anche... È un po' come il rapporto con le donne. Quelli che ne parlano tanto, poi concludono poco. Il tempo è tiranno, vi devo salutare. Ringrazio il presidente Viscardi, che spero che sarà nostro ospite anche altre volte. Arrivederci, Viscardi. Arrivederci, grazie. E ringrazio il professor Bianchi. Grazie a voi. Arrivederci, a domani, ore 13:15.